parlare di quanto a me non sia normale, di come vive l'impotente che con me non c'entra niente. E non siamo figli della stessa madre, condizioni differenti, con le persone che non hanno niente, socializzare non posso parlare. Giocando con la mia ombra.